L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio, ben ritrovati per questa puntata dell'Altro Pianeta che dedichiamo a temi vicini ma diversi da quelli di COP21 che è ancora in corso a Parigi. Diversi perché le trattative ancora proseguono in queste ore, andranno avanti anche tutta la prossima settimana e ne vedremo il risultato solo nella prossima puntata dell'Altro Pianeta. Tra l'altro seguiremo direttamente a Parigi le ultime fasi della trattativa di questa conferenza delle parti, quindi avremo notizie fresche da commentare sabato prossimo. Questa settimana invece parliamo di un docufilm che è arrivato nelle sale italiane, si intitola This Changes Everything, è un documentario del regista e giornalista Avi Lewis, girato in contemporanea alla stesura del libro di Naomi Klein, che in italiano si chiama Una rivoluzione ci salverà. Avi Lewis è il marito della Klein, ha presentato questo documentario, questo docufilm, chiamiamolo come volete, anche a Bologna, al TPO, dove l'ha intervistato Federico Mascagni. Io ho doppiato le sue domande, ma l'intervista è tutta sua. Lei inizia il film dicendo che stiamo vivendo in una tragedia, perché? Yeah, I think it's like the climate crisis is like a slow motion disaster. Sì, penso che la crisi climatica sia un disastro al rallentatore. Una delle sfide del parlare di questo in un libro, come ha fatto la mia compagna Naomi Klein, o in un documentario, è stato renderlo concreto. Penso che nell'affrontare questo tema ci siano molta paura e senso di impotenza. Di questo in parte la responsabilità è del movimento ambientalista. Per esempio, il film Una scomoda verità di Al Gore era disegnato per spaventarci, per trasmetterci un senso di paura e costringerci ad agire. Ma non ha funzionato. La paura non fa muovere le persone, le paralizza. Per motivare le persone ci deve essere qualche elemento di speranza, una speranza realistica. Quindi, sì. Viviamo in una tragedia di cui anche il Papa ha parlato nella sua enciclica Laudato Si, dove c'è un profondo senso di tristezza rispetto a quello che stiamo facendo al pianeta. Però dobbiamo guardare in faccia la realtà con una speranza che ci faccia affrontare questa tragedia. Quindi con questo film ha cercato un modo nuovo per affrontare la realtà dei cambiamenti climatici. È strano che io abbia passato gli ultimi 5 anni della mia vita parlando di cambiamenti climatici, perché non mi considero un ambientalista. Non sono mai stato un ambientalista. Ho lavorato in Canada per 25 anni come giornalista e sono sempre stato interessato a questioni economiche, a come funziona l'economia, a chi ne trae benefici. Quando Naomi ha cominciato a lavorare a questa idea che le radici della crisi climatica stiano nel sistema economico, nella logica dell'economia capitalistica moderna. Questo mi ha dato un'idea, mi ha fatto intravedere quella speranza che cercavo. Dopo il 2008 la gente ha visto che il sistema e le persone che hanno quasi fatto schiantare l'economia mondiale sono stati premiati con miliardi di dollari pubblici. Quelle persone sono rimaste al loro posto e i loro profitti sono andati sempre crescendo, mentre gli altri pagano ancora per i loro errori con l'austerità, con i tagli, con la stagnazione dei loro salari. La gente ha capito ormai che l'economia globale è ingiusta e che bisogna cambiare modello. Ora che la crisi climatica sta bussando alla nostra porta, facendoci capire che in un pianeta finito non si può ambire a una crescita infinita. La speranza sta nel contrastare i cambiamenti climatici attraverso la trasformazione di quel modello economico che già sentivano di voler cambiare. Finora invece la risposta mondiale al problema è stata ricorrere alla scienza. Esatto, abbiamo iniziato il film con Naomi che racconta che non si è mai appassionata ai documentari sull'ambiente, con gli orsi tristi e il ghiaccio che si scioglie. E poi si fa quella domanda trabocchetto: si può davvero essere stufi della fine del mondo? Da lì parte il ragionamento di fondo. Questa situazione è il risultato di una storia che ci siamo raccontati per secoli, sul fatto che possiamo dominare il mondo senza subirne le conseguenze. Mentre lei scriveva il libro e io giravo il documentario, siamo andati a una conferenza nella campagna inglese, in una villa che sembrava uscita da un libro di Jane Austen. Era un convegno di geoingegneria e discutevano di rispondere al cambiamento climatico offuscando il sole, sparando nell'atmosfera particelle che avrebbero riflesso indietro i raggi solari per ottenere un raffreddamento della Terra. È scioccante pensare che c'è una parte della comunità scientifica che, primo, è talmente disperata da prendere in considerazione questo tipo di soluzioni per affrontare il cambiamento climatico e che, secondo, crede realmente che l'umanità possa risolvere con una palla magica in 4.48 un problema che abbiamo creato in 200 anni, bruciando carbone per la rivoluzione industriale. Ora mi trovo qui in Italia. Lasciatemi dire che il Papa, il capo della Chiesa Cattolica, cioè una persona con cui io, ebreo secolare e femminista, sono spesso in disaccordo, ma con l'enciclica Laudato Si, il Papa è stato rivoluzionario, soprattutto per le persone che sono già colpite dal cambiamento climatico. Ha detto che questa società usa e getta va riequilibrata, che dobbiamo ristabilire una relazione di rispetto con la natura. Io sono convinto che le persone nel mondo lo sentano sinceramente, mentre molti scienziati dicono che non abbiamo alcun bisogno di ascoltare la natura. Ma è un pensiero vecchio che dobbiamo superare. Cosa pensa dell'Italia? Sono stato molto colpito venendo qui, proprio quando si apriva la COP21 di Parigi. Di cose straordinarie che accadono nel vostro paese. Il vostro ministro dell'ambiente ha recentemente affermato che l'obiettivo di riscaldamento globale dovrebbe essere di 1,5 gradi e non di 2 gradi, che è l'obiettivo generale. È un'idea fantastica, ma poi ho scoperto che lo stesso governo, sotto lo Sblocca Italia, ha dato il permesso per delle trivellazioni offshore in mare e quindi che vuole espandere l'economia dei combustibili fossili. Mi dispiace, signor Primo Ministro, ma non si può fare tutte e due le cose. Non si possono avere belle parole contro i cambiamenti climatici e contemporaneamente aumentare la più sporca e rischiosa forma di estrazione del petrolio in uno dei più bei mari del mondo. Nel film parla anche di come è cambiata la produzione energetica tedesca in questi anni e del diverso atteggiamento che la Germania ha con i suoi cittadini rispetto a quelli di altri paesi europei. Sì, la transizione energetica tedesca è un modello che ci interessa come canadesi. Vorremmo fare qualcosa di simile nel nostro paese. Prima della crisi, prima del 2008, c'erano programmi rivoluzionari per la produzione di energia rinnovabile in Italia, in Spagna e in Portogallo. Ma l'austerità degli ultimi 7 anni ha demolito questi progetti. In Germania, invece, negli ultimi 15 anni, sono passati dal 5% di energia rinnovabile al 30%, una delle transizioni più veloci al mondo. Hanno creato 400.000 posti di lavoro in questo settore e hanno creato 900 nuove cooperative in questo settore che è stato riportato sotto il controllo pubblico dopo le privatizzazioni che erano state fatte negli anni 90. Così ora ci sono queste nuove cooperative controllate dalle comunità locali che beneficiano dei proventi della loro attività che vengono impiegati localmente. È il sistema win-win-win per la Germania, che allo stesso tempo è stata la più brutale sostenitrice dell'austerità in altri paesi europei, soprattutto nel sud Europa, in Grecia e in Italia. Così abbiamo questa contraddizione per cui la Germania sostiene in patria questa transizione, ma sostanzialmente impedisce ad altri paesi di fare lo stesso. Per questo motivo pensiamo che avere a che fare con i cambiamenti climatici significa anche avere a che fare con alcuni dei più grandi problemi e delle più grandi ingiustizie del nostro mondo. La Germania non può dettare la politica economica degli altri paesi europei, perché il resto d'Europa deve poter perseguire la sua stessa transizione dai combustibili fossili alle rinnovabili. Ma per farlo occorrono massicci investimenti pubblici. Occorre favorire in via preferenziale le comunità locali, così che si possano creare anche nuovi posti di lavoro. Qual è la connessione tra economia e ambiente? Per anni ci hanno detto che l'economia e l'ambiente erano in competizione, in contrasto. I politici amavano dire che non faremo niente per l'ambiente che ci costi posti di lavoro. Ma la verità è che la crisi climatica è il disastro più dispendioso di tutta la storia del mondo. Per salvare l'economia dobbiamo avere delle politiche per l'ambiente molto forti. Dobbiamo smetterla con la dicotomia tra economia e ambiente. Non si possono separare economia e ambiente. Se andiamo all'origine della parola economia, significa prendersi cura della nostra casa. E prenderci cura della nostra casa è esattamente ciò che noi dobbiamo fare. Ed era Avi Lewis, regista di This Changes Everything, un docufilm che trovate ora nelle sale italiane. L'intervista era di Federico Mascagni. Lewis ci ha parlato molto di energia. Adesso cambiamo un pochino argomento con Gaetano Borrelli, responsabile dell'unità studi e strategie dell'Enea, e con lui parliamo di riscaldamenti. Lo studio di cui ci parla Borrelli si intitola Gli impatti energetici e ambientali dei combustibili nel settore residenziale. Lo studio che abbiamo fatto noi come Enea riguardava in particolare il ruolo delle biomasse per l'uso per il riscaldamento domestico a livello urbano, e quindi praticamente di che cosa si parlava? Di riscaldamento che avviene attraverso materiali come il pellet o la legna. Ora, a che cosa mirava questo studio? Poiché noi siamo un ente che studia tutte le fonti energetiche, quindi anche gli impatti di tutte le fonti energetiche, è stato messo in evidenza in questo studio che, a differenza del gas, ad esempio, che emette CO2 e quindi ha un effetto sul clima, magari questo tipo di biomasse non emettono CO2, però hanno un problema col particolato. In particolare, tecnicamente, si chiama PM10 e PM2.5 oppure polveri sottili. In effetti, di fronte a una diminuzione di gas clima alteranti, noi abbiamo un aumento delle polveri sottili, che viene considerato anche dall'Unione Europea un fenomeno abbastanza serio per la salute delle popolazioni. Beh, io in Lombardia, ad esempio, in molte aree è proibito assolutamente l'uso di questo tipo di riscaldamento, proprio per quello. E infatti questo è il secondo punto dello studio, perché noi dobbiamo considerare l'uso delle fonti energetiche come in qualsiasi altro settore, e qual è il contesto territoriale. Allora, io posso affermare in base allo studio che per esempio in Val Padana non è consigliato usare legna e pellet a causa delle situazioni climatiche che potrebbero aumentare gli effetti negativi delle polveri sottili. Questo potrebbe non essere vero per le zone di montagna o di collina, e quindi noi in questo studio abbiamo analizzato, non voglio dire i pro e contro, ma gli impatti oggettivamente che possono derivare dall'uso delle biomasse. Mi dispiace molto che un'associazione di produttori di biomasse l'abbia preso malissimo, peraltro nella regione Lombardia, evidentemente non ha letto lo studio, perché noi in questo studio abbiamo detto che, sebbene possa esistere un problema di polveri sottili, è auspicabile l'uso di tecnologie che abbattono le polveri sottili. Quindi l'allarme che hanno lanciato l'Enea contro le rinnovabili eccetera non è motivato in questo senso. Leggevo infatti nelle conclusioni dello studio che c'è proprio questo, ed è ben evidenziato. Le politiche di sostegno alle biomasse, leggo testualmente, in funzione della decarbonizzazione andrebbero condizionate all'uso delle migliori e più efficienti tecnologie disponibili. Facciamo una piccola pausa e poi ritorniamo. Radio24.it è sempre con te anche in viaggio. Consulta la mappa del traffico aggiornata in tempo reale. Potrai conoscere la viabilità del luogo in cui ti trovi e avere tutte le info su code, cantieri e altre criticità. Clicca su Mappa e scopri il nuovo servizio su radio24.it. Radio 24, la passione si sente anche in viaggio. L'altro pianeta. Ancora ben ritrovati da Laura Bettini, stiamo parlando con Gaetano Borrelli, responsabile dell'unità studi e strategie dell'Enea, di impatti energetici e ambientali dei combustibili nel settore residenziale. Questo è esattamente il titolo di uno studio dell'Enea. Stavamo dicendo poco fa, prima della pausa, delle nuove tecnologie utili per essere più efficienti e più sostenibili. Ma la domanda a questo punto è: che cos'è la sostenibilità secondo l'Enea? La sostenibilità, di cui si parla tanto, l'araba fenice mi sembra, noi la intendiamo in questo senso: un prodotto, un oggetto, un'azione, una politica è sostenibile quando è sostenibile a livello ambientale, quando è sostenibile a livello economico, quando è sostenibile a livello sociale. Senza uno di questi tre elementi, noi non possiamo dire che è sostenibile. Faccio un esempio: se io faccio una bella mela precisa che non ha pesticidi eccetera, ma la mela costa 10 euro a mela, lei ritiene che possa essere sostenibile? No, perché no. Chi la mangerà? Oppure se io metto un impianto che pulisce tutto eccetera, ma in un'area dove magari fanno il Brunello di Montalcino, anche se è sostenibile ambientalmente, ci sarà qualcuno che dirà questo impianto non è sostenibile a livello sociale, quindi col corpo della società? Questo vale anche per le fonti sostenibili. Dobbiamo provvedere a fare in modo che nella giusta diversificazione che l'Italia deve fare, noi siamo interpreti principali di questo pensiero, nell'uso delle fonti sostenibili sia sempre ripercorribile la strada di una sostenibilità non solo ambientale ma anche economica e sociale. Auguriamocelo anche perché per ora abbiamo sempre lavorato per comparti, no? Almeno in Italia, esatto. Adesso non voglio parlare di altri paesi che conosco meno bene, ma forse dovremmo porci l'obiettivo e poi capire come arrivarci ciascuno secondo le sue possibilità. Io sono perfettamente d'accordo con lei, ma infatti esiste da anni un approccio che viene definito olistico, che parla proprio di quello che dice lei, ma d'altra parte se noi vogliamo uscire dallo schema riduzionista, cioè nel senso che io prendo un fenomeno e lo analizzo pezzo per pezzo, noi dovremmo cercare le dipendenze tra i vari fattori di questo fenomeno, che è quello che si chiama l'approccio ecologico. E allora in questo senso noi potremmo andare per esempio a vedere come mettere insieme i diversi pezzi, perché uno più uno, diceva un mio professore, non è che fa sempre due, perché una mela più una mela fa sempre una pera e una mela. Quindi sembra assurdo, ma se io le dico che una verità più una verità fa due verità, e questo non è possibile, perché sullo stesso argomento se uno è vero e l'altro è falso. Quindi noi dovremmo cercare quegli approcci che guardano alle relazioni, a come i fenomeni sono correlati fra di loro, e questo è un problema che si pone a tutti i livelli, a livello della decisione del comune, ma anche a livello della decisione delle Nazioni Unite, anche a quelli che devono prendere le decisioni attualmente in quella che sarà la COP di Parigi. Infatti lei mi ha alzato la palla, io schiaccio, perché appunto siamo arrivati finalmente alla COP 21. Che cosa ci dovremmo aspettare da questo appuntamento di Parigi secondo lei? Visto che ha molta esperienza, no? Mi diceva 10 addirittura COP frequentate. Guardi, a parte le COP frequentate, poi io ho sempre seguito tutti i lavori anche quando non ci sono andato, ma il problema è questo, esistono sempre grandissime aspettative della COP. Allora noi che cosa ci dobbiamo aspettare? Ci dobbiamo aspettare che ci sia finalmente un accordo che coinvolga gran parte delle nazioni, cioè lo scopo della conferenza delle parti in italiano è che le parti trovino un accordo, altrimenti che cosa le facciamo a fare? Ora, per trovare un accordo che cosa è necessario? Punto primo, che ognuno rinunci a un poco di egoismo nazionale. Punto secondo, che ci si renda conto che noi dobbiamo andare verso una decarbonizzazione abbastanza spinta. Per l'Italia si parla dell'80% nel 2030. Punto secondo, che bisogna rivedere i meccanismi di controllo, è questo che la gente si aspetta, perché non deve essere un controllo di polizia, attenzione, ma deve essere la disponibilità degli stati principalmente a farsi controllare. E allora ringraziamo Gaetano Borrelli per questo approfondimento un po' sui riscaldamenti nel settore residenziale e un po' su COP21, e continuiamo a parlare di acqua, quindi parliamo di acqua e della sua disponibilità. Questo è uno dei temi di cui si dibatte sempre, anche quando si parla di cambiamenti climatici. Tutto ciò che va nella direzione di un miglior utilizzo, della riduzione degli sprechi, dell'ottimizzazione della gestione della risorsa è sempre il benvenuto per noi all'Altro Pianeta. pianeta. E in questo contesto quindi segnaliamo volentieri il Water Safety Plan appena adottato dal gruppo CAP, che è il gestore del servizio idrico di circa 200 comuni della provincia di Milano, che serve oltre 2 milioni di persone. È un piano per rendere più sicura l'acqua del rubinetto, è il primo piano di questo tipo adottato in Italia ma anche in Europa in base alle nuove disposizioni dell'Unione sui controlli dell'acqua potabile, e ce ne parla Luca Lucentini, che è il direttore del reparto di igiene delle acque interne dell'Istituto Superiore di Sanità, perché il modello di gruppo CAP è stato elaborato appunto con l'Istituto Superiore di Sanità. Si integra un sistema di controllo al rubinetto con una attenzione spasmodica al processo, cioè a come quest'acqua viene captata e prodotta. Quindi attenzione alla qualità delle risorse d'origine, valorizzando i dati di potenziale contaminazione ambientale, attenzione ai processi di trattamento, ai materiali, ai prodotti utilizzati, monitoraggi in continuo per evitare che fra un campionamento e l'altro ci siano variazioni di qualità, limiti di allarme quando dei sistemi integrati, complessi e tecnologicamente avanzati ci avvertono che qualcosa è in atto, e quindi questo significa anche cambiamenti climatici estremi con i quali purtroppo dobbiamo oggi fare i conti, e quindi il confrontarci con scenari di rischio diversi fa sì che dobbiamo riadeguare e rirazionalizzare i sistemi di controllo. Sarà un investimento importante in innovazione, dice Alessandro Russo, il presidente del gruppo CAP. Saranno necessari investimenti importanti per potenziare il nostro laboratorio, per installare tutti i misuratori in continuo che richiede questo nuovo tipo di approccio al controllo dell'acqua, e perché ovviamente il frutto di questo lavoro sarà quello di aumentare gli investimenti in acquedotto. Quindi diciamo che dopo il grande sforzo che abbiamo fatto sul tema della qualità dell'acqua e sul superamento delle infrazioni comunitarie per quanto riguarda la depurazione, la nuova stagione del gruppo CAP si apre proprio all'insegna di una maggiore qualità e quindi di maggiori investimenti sul tema dell'acqua potabile. E infine sentiamo anche il direttore del servizio acquedotto di CAP, che è Davide Chiuk. Un sistema come Water Safety Plan presuppone lo sviluppo, l'implementazione di diversi progetti, di diversi sistemi di prevenzione e controllo. È lo sforzo che stiamo facendo già da diversi anni a questa parte. Diciamo che il Water Safety Plan detterà i tempi e incanalerà questa attività all'interno di grigli e tempi ben definiti. Quello della produzione dell'acqua potabile è un processo industriale anche molto complesso, se vogliamo, richiede professionalità e competenze diverse. Credo che queste competenze siano racchiuse all'interno del gestore. Siamo convinti, consapevoli del fatto che siano necessarie anche altre competenze in materia ambientale, in materia sanitaria, e questo è il motivo per cui abbiamo allargato questa collaborazione anche con l'Istituto Superiore di Sanità e gli altri stakeholders. Grazie a tutti, ci ritroviamo la prossima settimana alla stessa ora con le conclusioni di COP21.